nostra, ne prendo subito. E vai, ma già sto facendo un progettato fuori. Cosa facendo? Questo l'ho fischia. Cosa c'è? Cosa preso in due, aspetta due secondi, già la sentirò il ventolo e sta caricando, due minuti. Probabilmente c'è qualcosa presente. C'è un incidio della Liceo Cherubiano, che è anziana. E allora abbiamo fatto questo interventino. bene, va. No, 5 punti. Canale in più punti, ma... Ciao. Non ti rametto il scatto, un attimo, facciamo la sigaretta. Aspetta, Pompulio. Io dicevo che sta chiamando lui. Chiamati. Che fa? O chi c'è che non ti sente? Umberto, Non lo sento, sento qualcosa, ma non capisco. Non ti sento, non ti sento. Claudio è sempre più di tutti, Claudio, da qua. Scherreggia forte, chi è che stava chiamando a Luca? Ora non ci vediamo, buonasera. A fare il radio è un sacrificio grande, no? Si va a casa, cosa vai? Tutto acceso qua, tutto chiuso e tutto acceso qua, altrimenti non si può fare. Tutti zero sotto zero. Non si buono. Tutta l'ora gli sono grato a rompere le scatole. Vabbè. Ma senti Roberto Massimiliano. Senti Massimiliano Roberto la Plata Mamma. Non ti ascoltano Roberto. Non senti niente lui. C'è una cosa che parla, c'è il senso che sta parlando non si capisce niente. Siccome te sta usando, per esempio l'aggancio, l'M93, mi sembra, ma non mi voglio sbagliare. Stai usando l'M93? Aspetta, ma si mi dato, c'è la testa, c'è la Roberto, c'è detto Roberto? No, 48 con l'M93 sta usando lui. Senti, si sente un po', ma non riesco a capirlo. Cosa Roberto? Scendi la radio che c'hai più grossa, cioè quella che dà più watt di tutti, in modo che non ti sentano un po' di più. Perché con l'ANA 48 se c'hai 4 watt, chiaramente se l'IA rimane basso, se invece col Mobico ne hai 8, già qualcosa va meglio, no? Poi sto usando la radio grande, ho fatto usando il baracchino, già l'hai visto col bip, ci hai sentito, sto usando quella grande, perché in un'altra stanza c'è troppo caldo. Capito, vabbè. Ok, avanti Massimiliano, già ti ascolta Luca, io sono qua, io 2 secondi. Massimiliano, ma perché tu sei, Buonasera. Adriane. Ciao Massimiliano. Ma se tu mi sentivi bene, io dicevo, ieri mi sembra, io l'ho fatto ieri, forse ieri. Già mi ha detto che non mi sentivi. Ma vado a lui, non ero meno. Già dico, mi spesso, se Roberto mi conferma, sicuramente mi ascolta bene, mi ha fatto ora. Ciao Gianni, avanti. Vai, c'è anche Roberto Quadrato. Buonasera a tutti, ciao Roberto e ciao a tutti gli altri amici. Vabbè, a me come mi ascolti a Platamora? Come mi ascolta a me? Va. Massimiliano, aspettate un amico. Aspetta, Roberto, conferma a Gianni come mi ascolti. Se arrivatevi il segnale, vai. Schiamato anche se la sotto l'ombrellone. Oh Gianni, a me non mi ascolta. Santiago 5, la radio è a bocca. Invece a me 7 la radio è pure va bene. Tu conta Massimiliano, mi conta. Che mi ascolta, segnale 5, radio a bomba, lui ha fatta buona. E c'è un'antenna, ce l'ha costruita lui, praticamente, una come una pesca. Ha fatto una specie di lavoro. Più o meno, dai, non ho capito ancora. Tu mi va un'antenna, mi senti in basso. Difensore, c'è un'antenna di Massimiliano. Dilli, se cioè, ti senti, allora facciamo cambiare, se no tu non me le cambiano più. Dobbiamo passare 8 giorni a presa. È difensore, c'è un'antenna. Perché se è cambiato il filo non funziona, è difensore, l'antenna. Ma facciamo cambiare. Dilli. Capito Massimiliano? No, Anta, io ho sentito l'aereo. Ma lo scontrino conservato è Massimiliano. Oh, due giorni c'hai di tempo Massimiliano, ti sento io. Però sono in macchina e sono sulla Bugiù capito, va a farti la giambata, chi non lo avessi come intervista di Gavino o di Pierpaolo, con te. Evidentemente è qualcosa che ha nei bolsi umani in Chivi. Te la faccio sostituire. Avete fatto la sostituire perché è difettosa sicuramente. Sì, sì, perché cambiando il filo, tra le cose è venuto uscire bene. Non dico 9:20, ma almeno 8:09 sarebbe venuto uscire. E vabbè, non è diventato la prima da Gavino, intanto, Gavino lo conosce. Penso di sì, chi si voglia. Fatela sostituire quell'antenna difettosa, perché sennò dovresti uscire più forte di Pierpaolo e di Bombolino, perché loro non ce l'hanno libera come te, capito? Infatti, fatela cambiare che è difettosa quell'antenna Massimiliano. Dovresti uscire meglio di Bombolino e di Coso e di Pierpaolo, perché loro ce l'hanno più forte in un modo losco, e che non possono piazzarla sul tetto, e quindi tu dovresti uscire meglio invece di scendere di peggio. Mi pare strano. Che è difettosa, non lo provarci pure, è difettosa, fatela cambiare. Ma lui che ha detto in quella gran pre che ti ha detto Pierpaolo, così almeno si sicuro di sì, quello non è male, non è male. Allora, via, avanti, vabbè. Antonio, ascolti a Roberto Quadrato. Basso basso lo ascolto, ma sono in macchina lì. Ho detto che ti ascolta basso basso, ma in macchina. Io vado a mangiare, a più tardi sei qui, ciao a tutti. Ciao, grazie, ci sentiamo. Ti sento sovramodulati con Alessandro. Ciao Alessandro, dai, buon carica. Ciao Claudio, anche a te. Ciao, ciao, non lo sentivo Alessandro, non l'ho sentito. Guarda c'è Roberto che ti sta chiamando già. Dimmi Roberto. Stavo durando zona coso, come si chiama? Monte di News. Ha un'antenna tipo quella di Bombolino, là, tipo uguale, uguale. Tipo bazooka là. Aspetta, ci dovrebbe essere Alessandro. Alessandro, mi ascolti? Io sto scendendo a Plaza Nova, sto scendendo. Quindi Alessandro se ne ascolta. Recupera le palle in Natale. No. facciamo, vai. Dito tu. Allora già. Sono rosso, buon clima. Va ricco, di là tu per forza. Arriva a CDR, ma il segnale è zero. 5, perfetto. Se 9 è quasi 9 più 5, ti conferma. Però io mi c'è in macchina, sì. E io leggo quello che c'è scritto qua, è abbastanza preciso, alla grande, analogico, già lo sai, lo sto usando. Santiago 9, un picchia 9 più 5, Roberto 7 più 1, 8. Yeah. Sicuramente sei 9.30, quando pubblici 9.40. Ah, è per quello, si è accaduto, la verticale sei 9.40. Un po' di più sicuramente, va bene. 7 un picchi modulati a 8. Ma per poco fa Natalino prima di fermarsi mi ha fatto un passaggio da 8 a 9. Natalino. L'apertura lui ce l'ha e purtroppo c'è la ricezione che ha un po' in difficoltà lui, e lo fa spesso, perché rimane coperto. Capito? Rimane coperto. Se ci muove già potenza, allora lo riceve bene. Però tu sicuramente lo ricevi bene, perché lui in quella zona ti arriva, no? Se non arriva. E vabbè, la ripante ci sentiamo. Bombola, riprendi. Ebbene, è una croce in basso adesso. Anche io ho la parabola, come sa, l'anno scorso. Bottisca, quando corre la Bottisca non siamo solo partite, solo qua al calcio. Ho detto tutto nel salone. Guardando ancora 0-0. Mosso il volume, la portarella la bottiglia al volume a zero, se no non sento più. Adesso abbasso qua, non mi ascolto la partita. No. È già come intendi attacca a poco la Spagna. No, chissà. Fatto un po' la Spagna. E non credere no, per qua. È forte, maledizione. Vai, la vita, mi diverso la vita, vai. Ah sì, per quello sono d'accordo con te. Va bene, dai. Bianco, per me 5 minuti, io mi rinfresco un po' poi torno. Avanti, Luca. Si ascolti questa radio mascolata. assurgono con Cavoli. Cercano ad avviarsi tranquilli. Tu devi mettere un giro fatto, ma sta lì. Ancora, se ti puoi passare a lo sai che ora è. Tutti tranquilli, già le finestre non si metterà pure in macchina. Ma se ti puoi lo sai che ora è, Alessia. Guarda che ti rompiano tutto, dove si pungono si rompia di brutto, io al forniero come c'è il braccio, va, ti ha tutto con il passaggio, la salita punta a me, ma io lo guardo, lo guarda, io devo vedere, mi sono convinto che c'è stato. Il mio braccio è corrompio, me lo posso mettere la medicina, quella per il gonfiore, e prima quella per la puntura, poi il laggio, il cazzo va, io lo guardo, ma io lo guardo il laggio. Stamattina me ne sono accorto, ma appunto ieri sera. Quindi ci va, Luca, 20 di modulati. 22 la radio. Io lo so, ma per dire, non era una prova che stiamo facendo da cento. Adesso hanno detto che praticamente queste case le devono buttare, non so quando, hanno detto comunque. Adesso metto a posto quelle che sono, diciamo, quelle di Zegata e Letta. Le metto a posto, ci hanno quelle a noi. E se mi date un butto più alto, allora ti giù che è noi. Ma basta ciò che mi sono liberatore sorpreso. E allora non ve ne fa nessuno. Salta, guarda che c'è... il campionato europeo, la finale è questa, la finale, non c'è, non hanno fatto neanche il terzo e quarto posto, niente, prima e seconda, boh, finito. Quindi, si gioca, speriamo sia un buon campionato, ma che sia pulito, sano, che non vi si affarra, è inutile, ce ne borra molti, ma è non ammai, vai. Speriamo. Speriamo che vada tutto. Ma scusa un attimino, ma l'Inter non era, come si dice, indagata? L'Inter c'è ancora qualcosa che stanno verificando, boh, Morattico, un qualche un altro che hanno fatto giro di denaro di Camorra, boh, così stavano dicendo l'altra volta, c'era anche su Inter, ma non va di nulla, non va di nulla, ma tutto questo sono i badroni, dici. Tutti. Io me lo lavoro per loro perché se prendono quel che adesso hanno finito, tutto dice lo successo, mamma mia, per carità di Dio, la vita io quello sono arrivato, allora per un domani si rinvi, senza copra, sai, i miliardi che ha perso, meno male a capo la Juventus, grazie ai giocatori perché sono matti quasi tutti. Ma visto l'altro giorno c'era l'articolo su Internet, la lettura è accesa da poco Internet. Ibrahimovic ha contattato il presidente della Juventus quando era pure prima di fare il campionato europeo. Ha detto non lo vuole neanche sapere a rientrare, tra voi più. Bene che si cerchi alloggio dall'altra parte, c'era proprio scritto che ha detto si è comportato male con l'aiuto, ha scuppato troppo perché un bravo giocatore puoi fare tutto quello che vuoi, però si è voluto andare via perché non volevi giocare in Serie B, ti credevi meno o più superiore degli altri, fatto rimasto del Piero, rimasto Trece che è campione del mondo, e tu mi sei un pezzo di merda, sei andato a scuppare dove hai giocato, dove ti hanno insegnato a giocare. Allora, comunque, anche Cannavaro molto probabilmente vuole tornare a Juve, anche Cannavaro è ben accetto, perché è andato via e l'ha detto chiaro e tondo, che non voleva rimanere in Serie B perché perdeva troppi soldi e poi voleva fare la Coppa. Infatti già mi metto il campionato. Ma ha ragione, se c'è il vivo ne rimano, ha fatto bene andarsi. Vabbè, già girano anche se vi manco ma da girare. Forse lui che molta gente l'ha convinto che la Juve facesse almeno un paio d'anni in Serie B, allora diventa disastroso. Ma si vede ha fatto un campionato giuro, tra ingaggi e tutto, hanno perso ben poco perché tu sappi che Ciolusaga è rimasto a giocare in Serie B, no? Hanno vinto, non hanno perso una partita, quindi avevamo perso una partita con Napoli quando era in Serie B. Sono rimasti i giocatori campioni del mondo, io sono Del Piero, Trezeguet, Nedved, Camoranesi, Buffon, ma vediamo anche tu, San Buffon, visto sì che è San Buffon, lui. E lui invece lui può andare lì, capito? E siccome adesso non sta andando d'accordo, cioè non andava d'accordo con Mancini, adesso che c'è questo allenatore che lo conosce, tipo spagnolo cos'è, tutti sono a Mocca, mi ho giocato a pallone a di voi, poi fa la fine di Ronaldo, la stessa cosa, quando si è tuffata con Corso, con l'allenatore del Milan, la stessa cosa qua, quindi, era molto prepotente, molto, un grande giocatore, anche se il campionato europeo ha fatto schifo. gruppo. Secondo me non arrivo io, queste due squadre. Perché è troppo di 100, devi caricare da 20 euro, 25 euro. 5 ore e ricaricarlo proprio giusto. E non è neanche 24 ore su 24, sono 30 ore settimanali, già è più di quello là, perché 30 ore settimanali sono quante settimane? Sono 4, sono 120 ore al mese, mi sembra, già è un po' di più, però è sempre una gaggata, non va bene. Come ti dico io, a Romeggi, ricaricare un telefonino, 30 ore settimanali, se esci fuori dalle 30 ore settimanali, te ne prendono subito i soldi, brava, è così o no, va, sono in atto, ma l'ho letto, un amico mi ha detto, molla, butto, fai così e via, io pensavo non si potesse fare, invece ho chiamato, sono venuti, hanno fatto il sopralluogo, hanno fatto tutto loro, è già più di un anno io ho la DSL. Accendo e lo lascio acceso anche due giorni quando l'aria sta scaricando film o cartoni, lui li atteso, ma non c'è nessun problema, quindi usa il tranquillo, queste misure, no, va bene così. Per un anno sono a posto. che ogni tanto devi farne fare la canzone. Io da quando ho il computer ho sempre avuto la VG8.5, prima con 7.5, poi c'è stato l'aggiornamento, ho inserito l'8.5. Appunto io ce l'ho in automatico, io quando accendo il computer fa direttamente lo scandisk a fare la finestra dove ti va lo scandisk della VG. Ciao, Francesco, di aggancio. Sì, perché c'ha... è connesso trio, che ce l'avevo ancora, ho guardato Franco, uno non so se aveva venuto, se aveva l'altro, lui non so se aveva fatto. C'era l'Alberino, dove c'è scritto 2060, c'era l'Alberino, quello era trio, perché l'attimo di prima era trio. E immagina di tutto, non ho mai mollato il microfono con questa radio, perché c'è una... arrivano lo stesso archivo tipo le SM20, va molto bene, perlomeno io riesco a farlo spingere bene, però 60 mi piace di più, più corposa la modulazione. Sì, super potente tutto, è bella, bella, e mi piace anche quel superstarmi, una bomboletta della radio, portano più treno. Grazie a tutti. 19.40. Può anche che sia l'apparato che è più sordo, la porta di Luciano. Di più se avevo messo per te come orologio di cose, di Luciano. E se no si può fare che va, che c'è cosa, del nuovo stesso. Non salivano più di quelle segnali. No, beh, questo è giusto, qua c'è 9 e 10, perché sei in mezzo tra il 9 e il 9 e 20. Nella stessa rossa è 9 e 10. Quindi può darsi che a Luca lo smetto il suo sia così, però lo deve più forte sicuramente, perché lui lì per fare segnali c'è cioè, lo deve più forte. Sì, a Luca lì. No, Luca ragazzi è una bella qua. Si conferma. Cosa siete facendo? Ma Gianni lì? Sì, si deve avviare giù un blocca. Il giardino è lì? Quella ciclovia del senso. Come se il giardino fu, è stato toccato il giardino. Tocca le segni? Sì. In feria? Dove? Ah, sulla pana, quello... Capito. Signore, ma troppo soffocare, ma tu faceva il guinzaglio a Stefano. 30, c'ha 6 mesi e qualche giorno già, perché luglio non è iniziato. Quindi, neanche 6 mesi c'ha, perché fa 6 mesi al 3 luglio, quindi c'è ancora 5 mesi e... Maschio, l'ha comprato dove l'hanno fatto avere a me, lì al apposta, cioè il motore di freni deve funzionare l'accensione elettronica, cioè un esercizio truffi. Perfetta, come la metto in moto parte subito immediatamente, c'è la batteria nuova, parte nuova. L'unica cosa è che non so, c'è questo taglio alla sera, non so se li hanno fatti, non ce l'ha fatto lui con me, non c'era qualcosa in tasca, come se si può buttare la sera. Campagnolo è, lo usava solo per andare in campagna, per prendere la macchina, e basta, torna. Mentre sono anche nuovo, un piede è nuovo, già è buono. No, beh, su quella la controlliamo. Ma la novella qui ci andiamo assieme, non ci vediamo, adesso ce la vediamo. Natalino lo fa andare di più. Ciao. forse no, anche le corde vocali, certo. Lui c'è voce come la mia, bella forte. Ah, e magari la mia è più acuta. Mi è acuto, sì. No. Via, via. Ho venuto da lì. No, che è, perché lo vuoi. Stavo ancora giocando a briardini. Anche Pablo stava giocando, prima ho iniziato io, poi ho iniziato loro. Io. Non sta bene anche a casa perché sono abbastanza fresco. Babbo, quanto io saluto a tutti con la mamma, se ci sentiamo domani, se poi una mattina sono a lavoro, poi domani sera vediamo il tuo lager. Ciao ciao, anche se sei alzato. Non sto andando la palestra, poi mi avevo detto una volta. Sto trovando la macchina, non so che fare. Mi avevo voluto uscire. Stasera, troppo caro sto facendo. Ma sono arrivato a 4-5 voci. Mamma mia, che è? Che affa, dai. Vabbè, dai, cra. Ciao ciao, dai, ci sentiamo. Saluto a tutti a domani. Ciao ciao, buonanotte. Ciao ciao, buonanotte.